oggi dobbiamo fare un doveroso in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione al piccolo grande uomo che si è fatto sognare sia in Italia che oltre l'oceano. Ha portato la Banco Roma sul tetto d'Italia e d'Europa, il grande Larry Wright, che purtroppo causa un gravissimo incidente stradale, lo fa stare in una terapia intensiva di un ospedale. In bocca al lupo Larry, facci sognare ancora. Buongiorno e bentornato a Paolo Onofri, la voce da remoto del Mood Groove, per portare assist contenuti al format tra filosofia e parquet del martedì sui 103.1. Nuovamente buongiorno a amici sportivi e non sportivi, buongiorno anche a Lino, puntuale per il Mood Groove di oggi martedì 18 luglio. È purtroppo un terribile incidente stradale ha portato l'eroe delle due capitali a un injured list, non causa incidente o infortunio sul parquet, ma pare qualcosa purtroppo di ben più grave. L'incidente di recente avvenuto è stato causato appunto dalla guida, da un aspetto che, se vogliamo, tragicamente destinato a una terapia intensiva, con diverse fratture facciali, con diverse fratture anche nel corpo e quindi una delicata situazione che richiede il ricovero e ovviamente una degenza molto lunga. Ma chi era Larry Wright? Beh, Larry Wright, anzi chi è, ci mancherebbe, e sarà sempre Larry Glenn Wright, è stato per me l'eroe delle due capitali, così possiamo intendere anche in maniera sintetica quello che lui ha fatto al di qua e al di là dell'oceano. Lui ha portato l'unico anello ai Washington Bullets, quindi a Washington, e ha portato l'unico scudetto a Roma, quindi in Italia. E non solo, a Roma ha vinto anche la Coppa dei Campioni, a Roma ha avuto diversi riconoscimenti per quanto riguarda una rivoluzione cestistica che ha portato per la prima volta il baricentro italico al di fuori di Varese, Milano, Bologna, Cantù, le squadre che solitamente erano sul tetto sia in Italia che in Europa. Insomma, la vittoria in Coppa dei Campioni è stata quanto mai significativa per dare una descrizione di quest'uomo, di questo atleta generosissimo, talentuoso, un'intelligenza cestistica unica, un'applicazione, una serietà veramente encomiabile e un percorso cestistico che resterà sempre e comunque. Lui nei Washington Bullets non è che sia arrivato in Italia in quanto la una seconda linea, lui a Washington ha giocato, era presente nell'anno dell'anello, l'anello di Wes Unseld, siamo nel 1978 mi pare, adesso sapete che io non mi informo in rete tendenzialmente e vado a memoria, ma ne sono certo, il 1978 l'anello arriva in una formazione non di super campioni per così dire, ma di giocatori molto uniti e sicuramente la capacità chimica di collante, di carisma per un piccolo ma grande uomo come Larry Glenn Wright è stata fondamentale, come nell'arrivo in Italia sia stato importante per questo spostamento del baricentro verso il Lazio, già insomma importante con Rieti, regina di coppe, con la Coppa Korać che arriva in provincia, appunto, con questa squadra, dalla società carica di entusiasmo, la società di Rieti, ma lo stacco definitivo e l'importanza di una rivoluzione cestistica per Roma, la capitale, arriverà prima con lo scudetto portato da Clarence Key, da Lockhart, e poi vi spiegherò anche questa storia, da Fulvio Polesello, da Enrico Gilardi, campione d'Europa nel 1983, dal povero Marco Solfrini, il Julius Erving italiano, e ovviamente dalla figura di Larry Bright, l'eroe delle due capitali. Ho portato anche una playlist tratta da Move to Groove, e quindi sonorità tipiche per il nostro format. Lui è The Boogie Back, cioè Roy Ayers. A tra poco, buon ascolto. Siete nel nostro bel paese, è andato a trovare il mitico coach Valerio Bianchini di quella Roma fantastica, ed è proprio lui a dare la triste notizia sui canali social. Campione NBA in quella Washington a trazione posteriore, ricordiamo centro undersize, il grande Wes Unser, per me il più grande rimbalzista a tutti i tempi, e al numero 4 una delle prime 5 ali grandi tutti i tempi, Big E, Alvin Hayes. Scelto nel draft del 1976, non è un draft ricchissimo, ma ha tante conoscenze italiane. Pensate che la seconda scelta assoluta è un grandissimo giocatore per l'Università di Indiana, che porterà grande contributo sotto la mole a Torino, risponde a nome di Scott May, e anche in NBA lui dichiara: guardate, il campionato veramente, perdonatemi, non è per poca voglia, ci mancherebbe, ma il campionato NBA è veramente lungo. Nella regular season vorrei giocare ad alto livello, ma con partite più diluite. La regular season sono 82 partite in un continente che è il Nord America, quindi decisamente provato, sceglie la via italica ed è stato uno dei più grandi americani in assoluti mai arrivati nel bel paese. Curiosità: alcuni atleti che hanno giocato in Italia, uno lo conosciamo bene, la quarta scelta del 1976, sapete chi era? Era il Leone, Leon Douglas. Strana la sua carriera, perché veramente c'erano grandi aspettative sulla sua realtà di percorso, poi qualcosa evidentemente è stato portato non certo a dei livelli da All-Star, ma a Detroit e a Kansas City sicuramente è stato un giocatore sia da protagonista che da seconda linea chiaramente molto importante. Un taglio di Milano, quinta scelta, Wally Walker, due volte anello NBA a Portland e a Seattle, senza praticamente, non dico vedere il campo, ma quasi, per trovare un giocatore che abbiamo visto anche in Italia. Bisogna arrivare alla sesta, è Adrian Dantley, giocatore fenomenale, uno dei giocatori che per quanto riguarda l'aspetto offensivo ha che da insegnare, certo. E al numero 14 il folletto Larry Bright, che arriva da una piccola università, Grambling State University. Ah, dimenticavo, lui nasce il 23 novembre del 1954. Mai calcato su un parquet, spoda fortitudo. Adrian Dantley, tra i primi 5 realizzatori di tutti i tempi, ha provato a fare anche vice capo allenatore, non gli è andata bene, adesso aiuta i bambini ad attraversare la strada dallo school bus per entrare a scuola. Penso un po' com'è il mondo. Adrian Dantley è il cestista, è stato il cestista che non fosse centro o power forward, se vogliamo, secondo me insieme a Bernard King, più forte giocando spalle a canestro. Adesso non sanno neanche più cosa voglia dire giocare spalle a canestro, però veramente 1,94, 1,95, spalle a canestro, questo un intuito, un'ira di Dio. Mi pare che abbia terminato la sua carriera da Rese, vicino un quartiere di Milano, ecco, e anche lì ovviamente girava 40 punti a partita, sì, una cosa veramente inquietante positivamente parlando per quanto riguarda l'aspetto offensivo. Sì, adesso, beh, comunque pensa un po' come va il mondo, però onore al merito, voglio dire, lui in maniera molto umile adesso si è messo a disposizione per dare una mano ai bambini, per, a proposito di sicurezza stradale, per portarli all'attenzione nell'attraversare la strada, per accompagnarli a scuola. Oh, ti aiuta Adrian Dantley ad andare a scuola. In Italia nel 1976, poi 1978, fino ad arrivare allo scudetto e alla Coppa dei Campioni a Roma, che succede? Succede che a Roma, ho già parlato di Rieti con dei giocatori, Cliff Mealy e poi Willy Sojourner, in seguito Tony Zino, ma una cosa devastante. Allenatore Elio Pentassuglia, un guru della pallacanestro, migliore allenatore che abbia mai avuto, lui di Brindisi, gli hanno intitolato anche il Palazzo dello Sport. Comunque, Larry Bright, poi vi racconterò dell'episodio in particolare, tornando alla Coppa dei Campioni e tornando a Roma. Roma che aveva una non era, diciamo, con una squadra come Bologna, Cantù, Varese, Milano, certo le grandi corazzate, però a Roma c'erano un sacco di squadre per quanto riguarda la pallacanestro e i campionati, e non proprio minori. Ad esempio a Roma c'era la famosa Stella Azzurra che si contrapponeva alla Virtus Roma. Guarda un po', bevano, secondo me, calcio che arriva dappertutto. I colori della Virtus Roma sono giallo-rossi e ovviamente i colori della Stella Azzurra sono bianchi-azzurri. Se parliamo di calcio e parliamo della capitale, vi fa venire in mente qualcosa? In finale nel 1982-1983 una Billy Milano, quindi il duello con Mike D'Antoni, pensate, questi due atleti storia della pallacanestro, sarà il primo scudetto che arriverà a Roma. E nel 1983 l'Italia, la nazionale italiana, vincerà il campionato d'Europa di pallacanestro, quindi siamo veramente nell'anno successivo la Virtus vincerà la Stella. Queste sono le grandi rivoluzioni, queste sono le tappe della grande rivoluzione cestistica che poi sarà fino a ridosso degli anni 90. Un livello come non si era mai visto e non si vede tuttora, tra tecnica, capacità di squadra e anche atletismo, solo che era intesa in maniera diversa. No, è di questo infatti che poi vorrei parlare in conclusione, portando i saluti, i progetti futuri per quanto riguarda il Mutu Group. Giustamente Enrico Erioforte fa: guarda, tu nella pallacanestro hai un buco di 33 anni, me ne rendo conto, quindi vedremo se è il caso di continuare a reiterare il format che dà approfondimenti su quello che secondo me è stato il vero basket. Per me adesso bisognerebbe cambiare nome alla disciplina sportiva, però questo è un parere personale, un altro discorso. In finale col Billy Milano, tre partite, si andava a tre partite, andata, ritorno, eventuale bella. Roma vincerà la bella in maniera molto molto importante, sarà il primo scudetto. E anche economicamente arriverà per il movimento cestistico un grandissimo contributo, una grande passione. Politici, imprenditori, diventano improvvisamente tutti appassionati di pallacanestro. Ci credo, come ho detto, caspita, il livello è altissimo. C'erano all'epoca gli americani che arrivavano in Italia. Ho citato Scott Bay prima, ne potrei citare a memoria quelli di tutte le formazioni, ma portavano una pallacanestro inimmaginabile, soprattutto se la vediamo ai giorni nostri. dell'Azzurra militava il mitico Abdul Zelani, sì, il giocatore che mise i primi due punti nella storia dei Dallas Mavericks. Sì. Siamo nella decisiva partita di quella mitica finale scudetto 33 di Larry Wright. Vi mando in pubblicità con, chiamiamolo così, l'aneddoto, l'episodio, e riguarda la finale di Coppa dei Campioni contro un Barcellona molto, molto favorito. Il Banco Roma si presenta con questa squadra, certo talentuosa, ma molto ruspante, con questo centro che rispondeva ai vari Meneghin vecchiato, un esordiente di grande classe. Allora era criticato, adesso come adesso sarebbe un centro di livello clamoroso, cioè Ario Costa, Walter Magnifico, e poi Fulvio Polesello era al centro del Banco Roma. Per me è un buon giocatore, un buon giocatore. Marco Solfrini, un 3 atletico, povero Marco Solfrini, scomparso prematuramente. Poi Enrico Gilardi, l'Andrew Tony de Noartri. Un giovanissimo playmaker, Stefano Sbarra, fece ottime partite, poi si è perso nel suo non è arrivato, però un ottimo playmaker, era il cambio di Larry Bright. Non lungo, c'era già Polesello, prendono uno straniero che non sia esattamente un centro puro, prendono un lavoratore, professionista serissimo tra l'altro, poi vi racconto, Clarence Key, 1,98, facevi prima saltarlo che girargli intorno, però un rimbalzista clamoroso, eh. Beh, insomma, per il campionato italiano, santo cielo, fa un po' fatica. Sono costretti a tagliarlo per prendere Darren Lockhart, giocatore decisamente più incisivo dal punto di vista offensivo, per me un ottimo americano. Ma c'è una particolarità: che anche se l'atleta veniva tagliato, poteva continuare a giocare nelle competizioni europee. Anzi, non potevano inserire il nuovo arrivo in Italia. Se volevano, difficile che accettasse il giocatore tagliato. Grande professionista, Clarence Key, chiaramente si sarà accordato in qualche modo, ma ha continuato a giocare in Europa, il famoso americano di Coppa, con un grandissimo impegno, e lui si è rivelato fondamentale per la vittoria del Banco Roma in quella storica finale. Larry Bright, pensate anche il professionista, pensate l'uomo, l'impegno. Sa che è la competizione più importante, può diventare, è già stato campione negli Stati Uniti d'America, allora ritenuti campioni del mondo, può essere anche campione d'Europa. E lui cosa fa? La affronta in un modo veramente encomiabile. Di questo ve ne parlerò dopo la pubblicità, però, perché merita l'approccio di Larry Bright e gli episodi di quella finale. Rimbalzi di Clarence Key, la compattezza della squadra fanno avere la meglio su quella Barcellona dove militava anche il mitico Marcelo Starks, ex Pippo Fortitudo. Sì, questo per dirvi il livello, il pivot avversario era Starks. brano che dà il titolo al format, Roy Ayers, il brano è Move to Groove. Anche se l'idea è quella del groove, ovviamente con Move a me è venuto in mente il Kiki Move, quello che poi in maniera assolutamente banale hanno definito lo step back nel tiro, il passo indietro, già portato dal grande Kiki Van de Wave nei primi anni Ottanta. Anche Larry Bird è stato un grande in questo movimento, ma dov'è che non è stato un grande Larry Bird? Dove? Difficile lasciare un format che parli di vera pallacanestro, che porti ancora questi nomi, che... Lo sfortunato di recente vittima di incidente stradale Larry Brightor in terapia intensiva, ne stiamo ripercorrendo la carriera anche perché i figli hanno chiesto a tifosi in Italia appassionati, pregate per lui perché ne ha tanto bisogno. Beh, la nostra preghiera laica è con questo format dedicato in maniera monografica o quasi a Larry Glenn Bright. Uno dei monumenti della vera rivoluzione, dell'aspetto più bello cestistico, questo è sicuro. Allora, finale 1984, Barcellona favorita, Barcellona fortissima, una vera corazzata, più ruspante Roma, poi non aveva mai vinto assolutamente. Si presenta in un primo tempo dominante la squadra, appunto, per quanto la squadra catalana, dico bene, Barcellona. Ed è dominante nel primo tempo. Vorrei spendere due parole anche sull'allenatore del Banco Roma, non solo l'abbiamo conosciuto a Pesaro, mi pare, ma non seguivo già più, che abbia avuto buoni risultati anche a Bologna, a Sponda Fortitudo. Per me, anche se l'allenatore italiano, preferisco valutarlo se sono stato allenato da lui. Non ho avuto la fortuna, purtroppo, per limitato talento e incapacità di essere allenato da Valerio Bianchini, ma da quello che ho visto e da quello che intendo per grande pallacanestro, ecco, per me Valerio Bianchini è stato il più grande allenatore italiano in assoluto. Non dico che dopo i primi 20 minuti di gioco pareva mamma butta la pasta, ok? Però Barcellona decisamente con una grande inerzia, ecco, una grande inerzia a favore. E poi l'esordiente Roma, insomma, Barcellona già presente in Europa, l'inerzia completamente a favore. Che succede? Questo raccontano le cronache, poi sapete che comunque la cronaca dell'aneddoto del folklore, se vogliamo. Allora, c'è tra il primo e il secondo tempo, adesso ci sono i quarti, non so bene come funzioni. Allora c'erano 20 minuti di gioco e 20 minuti di gioco. Tra il primo e il secondo tempo le squadre hanno la possibilità di ritirarsi in spogliatoio per parlare un po' della situazione che vi ho appena descritto. Larry Bright, parlando ovviamente inglese, non fa parlare Bianchini, dichiara dopo la partita: io è la prima volta che tra il primo e il secondo tempo non parlo. Parlò solo lui, Larry Bright, in inglese, con un impeto, con un'arrabbiatura, con una grinta, così pensate cosa potevano capire, con tutto il rispetto però, Enrico Gilardi, Fulvio Polesello. Lui ha parlato i minuti tra il primo e il secondo tempo in inglese arrabbiatissimo, e ha parlato solo lui, fa Valerio Bianchini ha detto: io non l'ho interrotto, l'ho lasciato fare. It's hard to move, groove and do your thing. Il secondo tempo è un monologo romano, sì, è veramente un monologo di Larry Bright. Ecco, la sensazione cestistica, adesso entro più nel tecnico, oltre al non sbagliare niente, l'idea è il momento che cestisticamente ho avuto la consapevolezza del mi prendo la squadra sulle spalle. E così è stato. Questo atleta, questo giocatore, un 85 playmaker, ha veramente dominato portandosi la squadra sulle spalle, ha dato spazio a tutti e non l'ha fatto in maniera egoista e non l'ha fatto portando 25 punti in un tempo, no, i punti quando era necessario farli, il passaggio perfetto quando era necessario eseguirlo, la palla rubata, la difesa intensa, le parole giuste al momento giusto. Roma porta a casa il suo primo titolo europeo, ovviamente MVP Larry Bright. You got to get it together. Come on! You got to get it together. Non si può dire immarcabile, ha fatto 30 punti. No, assolutamente. Però veramente è stato qualcosa dal punto di vista del carisma, della vera pallacanestro, dell'intensità, della perfezione di gioco. Qualcosa di encomiabile da insegnare nelle scuole. Aldo Giordani che diceva: se Roma Calcio a Paolo Roberto Falcao nella pallacanestro abbiamo Larry Wright, lo pronunciava così, grande Aldo Giordani. Concluderemo con le caratteristiche tecniche perché ci vogliono e con gli auguri di pronta ripresa e guarigione, e concluderemo anche con l'aspetto dell'aneddoto, no? All'intervista nell'immediato subito dopo la vittoria l'unica cosa che dirà, perché tutti meravigliati da sì capisco, c'era infatti da restarne stupiti, lui disse: io ho dormito con l'anello di Washington al dito. Pensate la passione, l'impeto, poteva tranquillamente viverla come una partita secondaria della sua carriera, già campione del mondo con i Washington Bullets. No, lui voleva, e portando buon auspicio anche alla finale in Europa, lui ha dormito con l'anello di Washington al dito. Sapete, no, che negli Stati Uniti nell'NBA si vince l'anello, in Italia diciamo lo scudetto, ma chi vince il campionato NBA vince il famoso anello. Girl, I know you think you fine. You think I wanna make you mine. But girl, if you could be all so kind to give me all your loving this time. So come on. Mm-hmm. Playmaker fondamentali perfetti, ovviamente velocità, che è una caratteristica per i piccoli dell'epoca fondamentale, una velocità incredibile, una buona capacità di esecuzione sia in avvicinamento a canestro che dal tiro dalla distanza, una lettura del gioco precisa, un'intelligenza cestistica, una capacità di coinvolgimento per i compagni e allo stesso modo per saper servire palla ai lunghi e coinvolgerli nel gioco, nell'aprire la scatola. Un giocatore offensivamente perfetto e un giocatore dal punto di vista difensivo abile e reattivo, uno dei piccoli più forti che il campionato italiano abbia mai visto, Definirei un play puro per come intendo il play puro io, perché è un playmaker con diversi punti nelle mani lui, ecco, e quei giocatori come in Italia sono stati presenti negli anni 80 da Sam Frederick a John Douglas, li abbiamo conosciuti a Bologna, decisamente Larry Bright aveva qualcosa in più, scelta nel 1976, giocherà solo a Washington nelle NBA, sarà presente solo nella franchigia dei Washington Bullets. I'm gonna tell you one more time, I got the loving that is so sublime. Dall'85 all'87 farà due stagioni a Udine, nella Fantoni Udine, ovviamente dominante. NBA ha giocato 343 partite, ha sfiorato la doppia cifra di media, Concluderà la sua carriera nel 1988 per poi intraprendere carriera da allenatore nella sua università, la Grambling State Tigers. E per l'Italia, in conclusione, giustamente ha dedicato una stagione a Roma dal 1987 al 1988. Italia ha giocato 149 incontri con la media di 25.1 punti a partita. Lui girava portando palla come playmaker, lui girava 25 punti a partita. Conclude ovviamente con questa preghiera laica di in bocca al lupo, pronta guarigione, pronta ripresa per il brutto incidente automobilistico capitato a Larry Bright, ora in terapia intensiva, diverse fratture, soprattutto fratture facciali, i figli hanno chiesto, date attenzione, mi raccomando, anche solo una piccola preghiera per il nostro papà campione può essere importante anche da voi, appassionati e sportivi dall'Italia. Il Move to Groove, che riconosce i grandi della vera pallacanestro, certamente non può mancare e risponde a questa meritoria richiesta con un sincero in bocca al lupo al folletto nero Larry Bright. essere una bella competizione il campionato italiano, eh. Beh, lui affrontava D'Antoni, Marzorati, affrontava per quanto riguarda giocatori d'oltreoceano, Sam Frederick, John Douglas. Sì, insomma, il livello lo sapete bene dell'epoca, eh. Non dimentichiamo Kicianovic. Passare a Roma, non è vero, adesso ripensandoci, prima di passare a Roma fece due stagioni non fortunate con i Detroit Pistons. Coppa dei campioni, titolo NBA, scudetto in Italia, aggiungo anche una coppa intercontinentale portata da Roma. Con questo concludiamo il... Beh, vedo nell'injured list Manuela Bassi, ora ne sapremo di più, la vediamo un po' claudicante. Questo per anticipare la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e grande onore al merito Manuela Bassi che vuole essere assolutamente della partita, anche se un po' claudicante, la vedo entrare in redazione in questo momento. Grazie Manuela. Domani si ritorna con il Voltiamo Pagina. Ho due lavori e chiaramente sono per voi ascoltatrici e ascoltatori, rispondendo al quiz al 333-180-9494. Mi raccomando, sui 103.1 la rubrica letteraria del martedì. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a colazione per domani. Ringrazio Paolo Onofri per la collaborazione da remoto. Vi auguro un buon martedì e un buon ascolto sulle nostre frequenze. Aggiungo il caloroso abbraccio immancabile da parte di William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani, eh!